mia canzone d'amore piena di nostalgia, scritta per te, pensando a te, Anna Maria. In un mattino d'aprile tra i mandorli tutti in fiore, scrissi per te, solo per te, la mia canzone. Ma tu non odi il mio canto d'amore, che ti ripete la mia grande passione chiusa nel cuore. Io vivo solo per te, sei tu la speranza mia. Vivo per te, solo per te, Anna Maria. Sei tu l'amor che riscalda il mio cuor, sei tu la mia primavera. Tu mi dicevi, tu mi stringevi con infinito ardor. Ma un triste dì ci lasciammo così, senza una sola parola. Addio lontano, ti canto in vano, ma non ascolti tu. Canto d'amore, e ti ripeto la mia grande passione chiusa nel cuore. Io vivo solo per te, sei tu la speranza mia. Vivo per te, solo per te.